Liberi Dentro ed Uradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Martedì 18 maggio, buongiorno e bentornati di nuovo a tutte e tutti su Liberi Dentro ed Uradio, ora in onda su Lepida TV, Radio Città Fujiko e Teletricolore. Sono sempre con la mia collega Antonella Cortese, buongiorno. Buongiorno Caterina, buongiorno a tutte e tutti e ben ritrovati. Per farvi compagnia per questa mezz'ora di mattinata insieme, ascoltateci e scriveteci sempre, come vi ricordo sempre alla fine del programma. E oggi vi porto a Napoli, Nisida e l'isola che c'è, a firma di Rossella Grasso sul Riformista. Perché Nisida è un luogo magico, innanzitutto è una piccola isola appartenente all'arcipelago delle isole Flegree, posta all'estrema propaggine della collina di Posillipo, in località Coroglio, nel comune di Napoli, un posto bellissimo, favoloso, dove è un isolotto. Perché la chiamo l'isola che c'è? Perché fa riferimento chiaramente all'isola che non c'è di Peter Pan, ma in questo caso è un'isola che c'è, dove questo carcere minorile non si guarda agli errori fatti, ma si cerca di trovare uno sprono, uno stimolo a guardare avanti per creare un futuro migliore partendo dalle competenze, dalle abilità di ciascuno. E tra queste abilità, tra i ragazzi, che cosa ci può essere? Per esempio lo sport. E allora a Nisida si sono inventati di ripartire da quello che piace ai ragazzi, quindi il calcio. Ed è proprio per questo motivo che è stato inaugurato un campo regolamentare di calcio a 5 con annessi spogliatoi per i giovani ristretti dell'Istituto Penale Minorile di Nisida. Caterina, parlando dell'isola che c'è, mi hai fatto venire in mente anche una canzone di Edoardo Bennato, L'isola che non c'è. Che è proprio, poi Edoardo Bennato è anche napoletano, però a parte tutto è molto interessante questo discorso dello sport, del calcio, un po' come un piano di azione per la rieducazione, lo possiamo intendere in questo modo secondo te? Eh sì, perché l'obiettivo è proprio quella della diffusione, del rispetto delle regole e del fair play e dell'osservanza della disciplina, dell'adozione di comportamenti improntati alla legalità tra i giovani attraverso lo sport, attraverso la realizzazione di impianti sportivi in aree ad alto tasso di dispersione. È stata fatta una cerimonia di inaugurazione, pensate, del campo di gioco qualche settimana fa, ed è stata anche inviata dal Papa, il nostro Papa Francesco, una maglia autografata, una maglia della nazionale, ed è stato questo il dono più gradito da parte dei ragazzi dell'istituto penitenziario. E lo stesso prefetto di Napoli, Marco Valentini, che rappresenta questa cerimonia, ha detto: quello dei minori in questa città è un tema molto delicato, importante, bisogna lavorare tanto proprio nella direzione del progetto, che è una dimensione, lui dice, comunitaria, quindi ci sono state tante sinergie per realizzare questa cosa, perché è realizzata proprio col coinvolgimento di tante realtà diverse confluite in un'unica direzione. Infatti è stata inaugurata anche un'altra iniziativa che si chiama Zona Luce, e avviata nel 2020, proprio nell'anno della pandemia, per favorire attività finalizzate all'integrazione e alla riabilitazione per tutte quelle categorie in condizioni di disagio ed emarginazione. La caratteristica più bella di questa zona luce è il fatto che coinvolga sia i detenuti che gli agenti di polizia penitenziaria, e si è articolata in un percorso per la formazione di istruttori sportivi con l'obiettivo di dare loro le competenze per esercitare un lavoro come allenatori, magari anche fuori, a fine pena. Mi sembra un'idea geniale, francamente. Hanno quindi partecipato anche gli agenti? Sì, e devo dire che forse questa è la parte più interessante, più bella del progetto, perché è stato seguito sia dai detenuti che dai ragazzi. Io mi immagino magari le partite di calcio giocate da detenuti e da agenti, deve essere stato un momento di grande unità, di grande, come dire, di andare al di là del reato commesso e vedersi come giocatori in campo. Il calcio infatti è un'occasione di crescita, è un processo di inclusione che fornisce anche gli strumenti per crescere insieme, per creare comunità insieme. Ed è una reale funzione quindi che si inserisce all'interno dell'articolo 27 della nostra Costituzione sulla riabilitazione delle persone che si trovano in carcere. Senti, parlando di Nisida mi è venuto in mente un bellissimo romanzo che è uscito nel 2019 e che è stato scritto da Valeria Perrella, che è una scrittrice napoletana, che racconta l'incontro tra due persone fondamentalmente, Elisabetta Maiorano, che è una professoressa di matematica cinquantenne in crisi matrimoniale perché il marito, insomma, beh, non vi racconto la trama, e al Marina, una giovane romena che è detenuta a Nisida. E, diciamo che in questo contatto rinasce un po' la speranza della professoressa Maiorano. Quindi, diciamo, è concentrato molto su questo personaggio esterno che, grazie alla presenza di questa ragazza, riesce a riprendere in mano la propria vita ed è veramente molto interessante. Grazie, quindi ci hai suggerito anche un libro. Riporta il titolo, per Si favore. chiama Almarina di Valeria Parrella. Perfetto, per cui lo potete trovare adesso che avete il titolo e l'autrice. Ora vi lancio una canzone, sempre di Bob Marley, Three Little Birds del 1977. E rieccoci, bentornati su Liberi Dentro, dopo aver ascoltato Three Little Birds di Bob Marley, che non vi ho detto, è un brano ispirato a una leggenda, nel senso che c'erano degli uccellini, tre piccoli uccellini che andavano a trovare Bob sul suo portico di casa mentre lui si sedeva a fumare, e una canzone sul non preoccuparsi troppo del proprio destino, perché prima o poi tutte le cose torneranno a posto. E a proposito di questo, speriamo che le cose tornino a posto, Antonella, perché oggi ci parli di malaria, dove sta arrivando il vaccino, anche per questa malattia. Esattamente, è una ottima notizia perché c'è questa sperimentazione nuova da parte dell'Università di Oxford in collaborazione con un centro di ricerca medica di Nanoro in Burkina Faso che sta dando grandi risultati e grandi speranze. Infatti, i risultati preliminari ottenuti su 450 bambini che hanno partecipato allo studio stimano una protezione che va dal 74 al 77% a distanza di un anno dalla somministrazione. E secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS appunto, bisogna avere almeno il 75% di efficacia per ritenere un vaccino valido. Certo, serviranno altri studi, altri approfondimenti per vedere quanto sia sicuro e quanto sia efficace su larga scala, ma questa è la storia di tutti i vaccini che ormai abbiamo incominciato a conoscere anche per la nostra situazione di Covid. Infatti la malaria è una malattia molto presente in Africa, vero? Sì, pensa che sempre secondo l'OMS nel 2019 ci sono stati ben 229 milioni di casi di malaria in tutto il mondo e il 97% in Africa, quindi veramente una percentuale altissima. E quell'anno sono morte 400.000 persone, il 67% delle quali erano bambini di meno di 5 anni. E tra l'altro, il Serum Institute of India ha anche collaborato allo sviluppo del vaccino e si è impegnato a produrre tantissime dosi, anche se ovviamente nella situazione in cui versa adesso non sappiamo se le proprie, diciamo, risorse potranno essere impiegate in questo contesto. Ecco, appunto, sappiamo troppo poco di questa malattia, quindi ti chiederei magari di spiegarci come si contrae e in cosa consiste in realtà. Certo, la malaria è causata da protozoi parassiti trasmessi all'uomo da una zanzara. E la zanzara si chiama Anofela e l'attività la svolge come un po' tutte le zanzare, anche le nostre, diciamo, locali, durante il crepuscolo oppure durante la notte. I sintomi della malaria includono la febbre, dolore alle articolazioni, mal di testa, vomito, convulsioni, coma. E una forte anemia, insomma, è veramente una malattia molto, molto, molto aggressiva. E la malaria severa di solito, è causata dal parassita Plasmodium falciparum, che provoca gravi danni agli organi interni e, se non curato, può essere letale. Pensate che questo Plasmodium ci mette 30 secondi per arrivare al fegato, è qualcosa veramente di inimmaginabile. E comunque ci sono cinque specie di parassiti che causano la malaria nell'uomo e due di questi rappresentano una grande minaccia. Il primo, ve l'ho già detto, è il Plasmodium falciparum, il secondo è il Plasmodium vivax. La ricerca sul campo, svolta anche da alcune organizzazioni come Medici Senza Frontiere, ha contribuito a provare che la terapia combinata a base di artemisinina è attualmente la più efficace contro la malaria, riuscendo a dare buoni risultati terapeutici anche nell'arco di una settimana. Ancora oggi, pensate, solo il 19% dei bambini colpiti da malaria riesce a ricevere un trattamento a base di artemisinina. E non è una medicina costosa, tra l'altro, ci vogliono $2 per poter somministrare questo farmaco. E questa è anche una call to action, no? Per noi cittadini che ascoltiamo per sostenere progetti per la cura di questa malattia e fare in modo che ci siano più del 19% di bambini che ricevano cure. E ti chiedo come si diagnostica questa malattia. Ecco, la diagnosi di una malattia così deve essere prima di tutto celere e certa, sicura, perché non riconoscere subito la malaria può portare addirittura alla morte, proprio perché non viene curata tempestivamente. Comunque può essere effettuata tramite un test rapido o con osservazione al microscopio. Tuttavia, i test non sono sempre disponibili in certe zone. E anche i farmaci antimalarici spesso non ci sono, e quindi, come dicevi tu, questa è una call to action, assolutamente. Grazie Antonella, stemperiamo con un po' di musica prima del secondo ospite. Sì, volevo presentarvi un mito della musica afrobeat, forse il fondatore della musica afrobeat, che si chiama Fela Kuti. Fela Kuti è nigeriano e unisce le tradizioni musicali Yoruba, che è un'etnia nigeriana, al jazz e altre, diciamo, forme musicali. E fu chiamato anche The President, molto impegnato politicamente, molto impegnato anche socialmente, ha conosciuto anche le patrie galere ed ha lavorato, diciamo, anche con musicisti della stregua appunto di Bob Marley, Miles Davis e James Brown. Cioè, più che lavorato, diciamo, ci sono influenze con questi musicisti. Tant'è che disse che James Brown aveva preso ispirazione da lui per creare la sua musica. E tra l'altro, l'ultima cosa che vi voglio dire è che Fela Kuti è tra i candidati a entrare nella Rock and Roll Hall of Fame a Cleveland negli Stati Uniti. Quindi veramente, come si dice, un pezzo da 90. Ascoltiamolo, grazie. Eccoci, bentornati su Liberi Dentro. Ora siamo con un nuovo ospite, con noi, Ignazio De Francesco da Montesole. Buongiorno Ignazio. Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. È sempre bello ritrovarsi qua in trasmissione con voi. E per parlare di questo, ve lo faccio già vedere. Ecco il nostro report in uscita a cura tua, Ignazio. Il titolo appunto è Liberi Dentro, la comunicazione al e dal carcere nell'era del distanziamento sociale. È uscito quest'anno, ma la nostra esperienza è già partita lo scorso anno, nel 2020, con l'inizio della pandemia. Questo volumetto, questo report pubblicato dal Garante regionale delle persone prive della libertà personale, quindi il primo progetto in Italia, possiamo dire tranquillamente, nato dal basso, cioè per iniziativa di cittadini e cittadine che entrano in carcere per lavoro, per chi è insegnante, chi è come noi volontario, chi è cappellano per il carcere, e iniziato alla casa circondariale Rocco D'Amato di Bologna, che non potendo, persone che non potendo oltrepassare il blocco di ingresso a causa della pandemia, ha lanciato un programma radiofonico e televisivo. Ma siamo qui con te per parlare invece di un convegno nazionale il 21 di maggio, si terrà attraverso un webinar aperto a tutti. E quindi raccontaci innanzitutto tu, Ignazio, perché Eduradio? Ma direi che un po' le cose le hai già dette, tu io non faccio altro che inserirmi in questo e arrivare poi al convegno, cioè intanto ero il desiderio di stare vicino agli amici e alle amiche. Quando si va in carcere si fanno delle amicizie vere, che molte volte continuano quando poi uno esce e proseguono. Quindi questo dolore della separazione, quindi no, dobbiamo essere in qualche modo, ma nello stesso tempo poi fare anche cercare di fare qualche cosa di utile, fare del teatro, fare della letteratura, un po' di notizie, un po'. E quindi, come hai detto anche tu molto bene, questa cosa si è sviluppata poi dal basso. Sono venuti il Teatro dell'Argine, i Cantieri Mitici, il Pratello, l'Equipe Sanitaria, il FOMAL, l'AVOC, il Poggeschi, Note Libere, cioè tante realtà che lavoravano in carcere, che si sono unite. Allora arriviamo a questo convegno del 21 che è aperto da Marta Cartabia, insomma ci colpisce molto che il Ministro della Giustizia intervenga a questa piccola cosa, ma anche che porta tanti voce prima di Eduradio, di questa radio diciamo educativa, ecco, dedicata alla reattività educativa. Per esempio ci sarà Riccardo Arena di Radio Radicale, che è molto molto famoso, ci sarà il cappellano, l'ispettore generale dei cappellani in Italia, perché si fa anche cose su Radio Maria, ci sarà Antigone, che fanno una bellissima trasmissione, Jailhouse Rock, cioè noi ci sentiamo parte di una rete che dall'esterno vuole scavalcare il muro alto del carcere con le voci. Ignazio, sicuramente insieme alle lodi arrivano anche le critiche, tipo non date voce alle proteste dei detenuti, date una visione edulcorata di un sistema, il carcere, che spinge le persone alla disperazione e che le distrugge invece di aiutarle a risorgere. Sì, questo è molto vero, perché abbiamo ricevuto, appunto come dicevi, delle lettere, dai ragazzi bravi, vi vediamo così, però anche delle lettere magari che erano all'inizio contenti e poi amareggiati, ma insomma qua c'è un grido, poi quest'anno è stato terribile. Quando noi diciamo che abbiamo avuto il lockdown non ci rendiamo conto cosa vuol dire stare 34 giorni in isolamento totale per il Covid, settimane che non si va magari all'area perché è chiuso, cioè per le misure di prevenzione, ma sono delle cose veramente terribili. Allora di fronte a questo grido voi date l'idea di una specie di collegio, sì, con regole un po' dure, un po' strette, così un collegio di una volta, e questo è vero. Questa critica la comprendiamo, e diciamo che anche a parte alcune limitazioni specifiche su alcuni casi, il diritto di scrivere, di comunicare all'esterno, le persone detenute sanno che possono sempre scrivere a una radio, per esempio una radio radicale, un giornale che riporta, cioè Ristretti Orizzonti, ci sono tante realtà che possono dare voce, e anche noi nel nostro piccolo, nel nostro angolo, diamo voce effettivamente a questo disagio. Però la nostra mission è quella di dire due cose sul carcere. Uno, che il carcere non è solo chiave, quindi dal punto di vista dell'istituzione ci sono cose di cui non si parla mai. Si imparano dei mestieri, si prendono delle lauree, si prendono dei titoli, si fa della musica, si fa del teatro, non lo si dice mai, lo vogliamo dire. E poi l'altra cosa, che il detenuto non è solo, le persone detenute non sono solo il reato, e cioè che malgrado il fatto che uno abbia sbagliato nella vita, abbia commesso un reato, magari anche grave, rimane una persona piena di ricchezza, piena di poesia, piena di letteratura, e a noi sembra importante dire alla città e anche a loro stessi questa cosa. Grazie Ignazio, lanciamo una breve pausa musicale con Rino Gaetano, la nostra sigla, Ma il cielo è sempre più blu, a tra poco. Versaglio, E rieccoci, bentornati sempre su Liberi Dentro Eduradio. Stiamo chiacchierando con Ignazio De Francesco a proposito del convegno nazionale del 21 maggio, dove si parlerà di Liberi Dentro Eduradio, la nostra esperienza raccontata in un report. E Ignazio, dicevamo, Eduradio è la prima esperienza per noi nazionale in Italia di un programma da e per il carcere, ma si può anche parlare di esempi all'estero, dai quali un po' abbiamo preso forse spunto, no? Quindi ti chiedo, quali sono le sorelle, tra virgolette, di Eduradio? Io ho in mente due casi molto interessanti, ne parleremo nel convegno. Una è National Prison Radio di Adelaide, dell'Australia, che in particolare si occupa degli aborigeni in carcere, che sono gli ultimi, ecco, in Australia, le persone più colpite, anche più di più bassa condizione, è dedicata molto a loro questo programma. E poi l'altro, che è veramente per noi un faro, li avremmo voluti portare al convegno, purtroppo non siamo riusciti a organizzare nei tempi di cui avevamo bisogno, che è il Prison Radio Association della Gran Bretagna, che è nata nel 2007 come dal basso, come noi, come un'attività caritativa, e poi è entrata la BBC, è entrato lo Stato, insomma hanno fatto due centri di produzione in un carcere maschile, in un carcere femminile, attualmente producono 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana, con un'area di copertura di 100 case circondariali tra Inghilterra e Galles, e hanno il 70% dell'ascolto ed è un taglio tipicamente education, cioè non è la radio arrabbiata, ecco, che dà il grido che ci vuole, ci vuole la protesta, ma è una radio che dà voce a questo, le due cose che dicevo prima. Il carcere non è, non deve essere solo chiave, e le persone detenute non sono solo dei reati che camminano. Sono delle persone con la loro capacità ideativa e così vorremmo, insomma, sviluppare in Italia quello che è un progetto europeo. Ricordiamo che noi mandiamo in onda 60 ore di trasmissione al mese tra radio e televisione. Ignazio, considerato lo sviluppo delle tecnologie in questo anno di pandemia che ci hanno tanto aiutato, francamente, e anche in carcere sono state d'aiuto, quali sono i progetti futuri? Allora, io qua parlo da cittadino Ignazio, che non rappresento altro che se non la mia idea. Per fortuna la Costituzione dà anche a me il diritto di espressione come agli altri. E la tecnologia credo che vada sviluppata. Noi sappiamo che c'è un problema enorme, che è quello lì della copertura di rete da remoto. Secondo me, secondo il cittadino Ignazio, bisogna poter arrivare a fare tranquillamente le lezioni universitarie da remoto. Si devono fare gli esami universitari da remoto, non con lo stillicidio che abbiamo visto in questi mesi. L'istituzione delle videochiamate, appunto, per le persone detenute deve essere una cosa che secondo me va mantenuta, non si deve andare indietro quando finisce la pandemia, e va ampliata, questa è la mia idea. Quindi tutte queste cose vanno messe in piedi. Per quanto riguarda la radio e la televisione, il mio sogno, posso dire forse il nostro sogno di Eduradio, è quello di avviare un laboratorio di produzione radiotelevisiva in carcere, in cui si faccia del giornalismo radiotelevisivo anzitutto dal carcere, quindi all'interno della scuola e anche fuori dall'orario scolastico, in cui si possono coinvolgere per esempio le persone che hanno un basso livello di lingua italiana, quindi non saprebbero scrivere un articolo, ma un'intervista la possono fare, per esempio, e utilizzare questi materiali con tutte le autorizzazioni, tutti i crismi, bolli, controlli, per mandare in onda sulle nostre emittenti con cui siamo in partnership, quindi Lepida, Tricolore, Radio Fucico. E poi il sogno, perché bisogna sempre sognare un passo avanti, è quello di fondare all'esterno del carcere una redazione, come altre attività ci sono dove vanno le persone detenute in lavoro esterno, ci sia anche la possibilità di venire a lavorare in redazione. Ovviamente non è che, diciamo, si fa domani mattina, non è che voglio vendere, come si dice, la pelle dell'orso prima di averlo preso, però bisogna lavorare in questo senso. Se si vuole arrivare lì, e si può arrivare, bisogna cominciare a pensarci da oggi. E quindi il mio invito, ovviamente, a tutte le istituzioni è di aiutarci, carcere, città, regione, eccetera, eccetera, benefattori, ma anche voi persone detenute, se qualcuno mi ascolta, abbiamo bisogno dei vostri consigli, del vostro incoraggiamento e anche delle vostre critiche. Grazie, grazie Ignazio, grazie Antonella. Allora, mi raccomando, iscrivetevi a questo webinar gratuito, aperto a tutti, il 21 di maggio dalle 14 alle 19. Potete iscrivervi scrivendo nome, cognome, ente, scuola di appartenenza, formazione, punto, garante detenuti, chiocciola, ovile.coop. E quindi ve lo ricordiamo e adesso lancio un brano musicale, un po' per, permettetelo anche per ricordo, 4 marzo di Lucio Dalla, che è la canzone con cui siamo partiti col nostro programma nel 2020. Buona giornata a tutti, grazie. Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. Parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese a mia madre sopra un bel prato. L'ora più dolce prima d'essere ammazzato. Ben ritrovati, abbiamo appena ascoltato il nostro Ignazio De Francesco, che è anche il responsabile del progetto Liberi Dentro, un po' l'ideatore di questa grande avventura insieme dallo scorso anno, per parlarci per l'appunto del webinar. Quindi segnatevi l'appuntamento il 21 di maggio, webinar internazionale su Eduradio. La rubrica Oggi parliamo di del giorno è a cura del Poggeschi, Diritti al Punto, e quindi ve la ricordo sempre sull'Epida TV tra poco oppure su Teletricolore alle ore 17. Ringrazio la mia collega Antonella Cortese, il nostro Pasquale Pitaniello che ha montato queste puntate, e scriveteci redazione liberidentro@gmail.com oppure se volete scriverci via lettera Chiesa Santissima Annunziata, via San Mamolo 2 40 136 Bologna. Noi ci rivediamo domani sempre con un nuovo ospite, sempre qui su Liberi Dentro. Buona giornata. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.